Il Sinage ha promosso un'iniziativa, una notte bianca delle edicole. Ne parliamo al telefono con il segretario nazionale Giuseppe Marchica, che è al telefono con noi. Buon pomeriggio. Sì, buonasera. Innanzitutto le chiedo il senso di questa iniziativa. Va fatta una precisazione. Noi questa l'abbiamo chiamata la notte delle edicole, non la notte bianca. C'è una ragione, perché noi in questa occasione abbiamo ideato questo progetto con l'intenzione di concentrare in una sola edicola in ogni città l'apertura, per invitare in quella sede le amministrazioni pubbliche, i sindaci, gli assessori, perché l'intento è quello di mantenere una luce accesa su una categoria che ha una crisi profondissima. Si è in meno di 10-15 anni si è dimezzato il numero di edicole presenti in Italia. Quindi l'intenzione di questa iniziativa era quella di, in modo non tradizionale, quindi al di là dei dibattiti, le assemblee, le cose che normalmente avvengono, abbiamo scelto una strada più conviviale, nel senso che siamo ancora a gennaio, l'anno nuovo, abbiamo invitato gli amministratori a prendere atto e tenere presente della crisi di questo settore, che è delicatissimo, perché quando le edicole chiudono, molte di quelle copie di giornali e di riviste non si vendono da altre parti, quindi diventa la situazione molto grave anche per tutto il settore, non solo per l'edicolante in quanto tale. E quindi noi abbiamo tenuto aperto un'edicola invitando appunto lì le amministrazioni per mantenere una luce attiva su questa crisi. Quello che stiamo pensando, per questo che ho fatto questa distinzione, la notte bianca vera e propria la stiamo ragionando per farla con le edicole aperte a quel punto, quindi non un'edicola in cui concentrare le persone, gli amministratori pubblici, ma le edicole che vorranno partecipare a questa cosa per tenere le serrande aperte una sera, le luci accese e dare il senso del valore che hanno come presidio del territorio le edicole. Però in quell'occasione sarà molto presumibilmente in primavera, quindi quando anche la temperatura consentirà un po' meglio di poter stare per strada, quella sarà la notte bianca vera e propria, perché lì inviteremo proprio gli edicolanti delle varie città italiane a mantenere questo presidio aperto anche la sera. Quali sono le principali ragioni della crisi delle edicole? La principale o le principali sono: uno, che gli italiani leggono sempre meno; due, che soprattutto i giovani sono poco abituati a leggere i giornali, perché, e questo è un parere diciamo personale, ma credo che non sia solo personale, molto spesso si accontentano dei titoli e quindi le informazioni che arrivano dal web sono sufficienti, mentre i giornali sono una cosa dove si approfondiscono le questioni, dove il solo titolo non ha nessun significato se non corredato da un articolo. Quindi non è il web che ha ammazzato l'editoria, questo è quello che racconta qualcuno per spostare il problema. In realtà non è così, non è il web, non sono gli abbonamenti dei giornali in PDF, non è quello che ha ammazzato, che sta ammazzando il sistema, ma sono il fatto che si legge meno e soprattutto il fatto che, ad eccezione di alcuni editori, pochissimi, in questo settore non si investe più. Ci sono tantissimi editori che fino ad alcuni anni fa facevano un'operazione molto importante di restyling delle pubblicazioni, ne tiravano fuori di nuove in continuazione, enciclopedie collezionabili che ne uscivano in misura enorme, e da alcuni anni tutto questo non avviene più, e quindi il panorama editoriale è molto fermo, secondo me anche vecchio, e questo si aggiunge al fatto che ci sono crisi economiche, che c'è una crisi di rottura, in più non c'è l'offerta, e quindi la somma di tutte queste cose porta a una situazione che è abbastanza critica. E immagino sia anche per questo che negli anni, come dire, le edicole si sono attrezzate anche per offrire servizi sempre diversi, insomma, non solo la vendita appunto delle riviste e dei quotidiani. Sì, questo è stato un modo, o si è cercato di fare questo per dare un sollievo all'attività, perché i costi sono sempre quelli, anche perché alcuni editori, adesso io non voglio fare nomi, ma tanto per farne uno, il più grosso d'Italia, che è Cairo oggi, lui le sue testate, quelle della sua azienda, della Cairo Edizioni, sono tutte testate a un euro. Allora, quando un edicolante vende una testata a 2 euro, 2,50 euro, e dopo arriva il concorrente e le mette tutte a un euro, è chiaro che chi la vendeva a 2,50 se vuole continuare a vendere deve abbassare il prezzo di copertina. Questo in linea generale per il lettore può anche andare bene, ma per l'edicolante che vede dimezzata la sua quantità di entrate di fronte a dei costi che invece sono sempre in crescita, diventa difficile. Per quello che noi abbiamo chiesto agli editori di rifare un accordo, un contratto che vada a vedere quali sono le condizioni economiche per fare leggere l'intera filiera, anche perché l'editore ha contributi pubblici, ha un'IVA agevolata, ce l'ha forfettizzata, ha vantaggi sul piano telefonico, ne ha avuti sulla carta, sugli abbonamenti, cioè gli editori dei vantaggi dallo Stato ne hanno avuti in questi anni, allora non puoi utilizzare i vantaggi che lo Stato ti dà per abbassare il prezzo di copertina e far pagare i costi agli edicolanti che alla fine chiudono. Quindi questo è uno dei problemi secondo me più importanti che noi abbiamo. Adesso quello che si stava dicendo, che diceva lei prima, e cioè sugli altri articoli, sui servizi, è un modo che abbiamo cercato per aiutare le edicole, però gli altri articoli, le altre merceologie, è evidente che chi poteva mettere in negozio cose che nella sua realtà territoriale potevano servire lo aveva già fatto da tempo. Chi ha provato a mettere nuove merceologie non ha avuto un grosso successo, anche perché in questi anni sono nati una miriade di negozi di cinesi e ovviamente noi non possiamo fare concorrenza a quei negozi lì, e quindi abbiamo tentato di rivolgere l'attenzione sui servizi. Servizi di tipo postale, servizi anche per i pacchi in partenza o in arrivo, per cui gli edicolanti questo tipo di attività stanno cercando di farla, però non è che ci sia dei redditi tali che consentano chissà quale cosa, cioè stiamo parlando dello 0, qualcosa sul reddito, e quindi un servizio che comunque l'edicolante dà ai propri clienti dal punto di vista economico è del tutto marginale. Visto che tra il vostro lavoro e quello, come dire, degli editori c'è una sorta di necessità reciproca, è possibile pensare a una forma di alleanza? È quello che noi gli abbiamo chiesto, ma loro sono molto d'accordo con tutto quello che gli diciamo, purché noi gli chiediamo dei soldi. Noi gli abbiamo proposto di andare a stabilire una sorta di equo compenso come quello per i giornalisti, no? Che è proprio minimo, e abbiamo detto proviamo insieme a vedere quali sono i livelli entro il quale le attività possono tutte rimanere in piedi, quindi le attività sono quelle dell'editore, sono quelle dei distributori, dei trasportatori e dell'edicola. Loro sono disponibili a fare tutto, a fare tutti i patti che si vuole, a dare una mano sui servizi per vedere anche loro quali servizi portare all'edicola, ma quando si parla di denaro a quel punto crolla tutto. Noi abbiamo fatto in particolare una proposta, è quella di aumentare, di dare alla filiera, quindi non solo alle edicole ma tutto il sistema, 10 centesimi per ogni testata che arriva in edicola, che chi non ce li ha, l'editore che non ce li ha, se vuole li trasferisce sul prezzo di copertina, perché credo che 10 centesimi per salvare un'intera filiera non sia una tragedia. Ma loro anche su questo ci hanno detto non se ne parla nemmeno, quindi le alleanze vanno bene, ma non, se non ci sono i soldi è difficile. Visto che ha fatto una cifra, quanto guadagna più o meno un edicolante? C'è un accordo unico che vale per tutto il territorio italiano e che vale per tutte le riviste tranne qualche cosa secondaria, ma cioè, parliamo del 90% rotti delle riviste, dei quotidiani. L'edicolante guadagna all'ordine 18-70%. Siccome tutta l'editoria viene fatturata già alla fonte, cioè quando arriva in edicola è già fatturata, quindi l'edicolante non è che su quelle lì può far finta, scappare e non denunciarlo, perché è già fatturato, quindi è tutto dichiarato, e su quel 18,70 tolte le tasse che sono pubblico, l'affitto, la luce, l'INPS, l'IRPEF eccetera, all'edicolante nella migliore delle occasioni gli rimane in tasca circa il 10-10,5%, quindi su un giornale di 1,50 euro l'edicolante guadagna 15 centesimi. Insomma, col lavoro che fa, con gli orari che fa, con il fatto che tutto le domeniche molte, una domenica sì, una no, altri, insomma con l'orario e i giorni di apertura, ma non è che qui guadagna di più o di meno, quello è il contratto con gli editori, quello che noi vorremmo ritoccare, è scaduto da 11 anni tra l'altro, e quello vale per tutti, non c'è nessuno che prenda di più dei numeri che io ho appena detto. Lei prima ha fatto riferimento alle istituzioni che avete invitato appunto in questa iniziativa, che ruolo possono avere? Il ruolo è quello di spingere anche sul governo per far sì che una parte dei fondi pubblici che sono da sempre destinati all'editoria vengano ripartiti anche verso le edicole. Noi a Bologna, l'edicola che rimane aperta a Bologna, che è quella di Sardegna, abbiamo già avuto sia l'assessore Itini, anche il sindaco Merla, che hanno aderito all'iniziativa, che verranno a trovarci, verranno a bere un bicchiere con noi. E le dico, verrà anche il presidente della Poligrafica Editoriale, dottor Riefeser, che oltretutto è pure presidente della Federazione Italiana Editori, quindi un ruolo non solo locale in quanto proprietario della Poligrafici, ma anche di tipo nazionale, ed è lui il presidente della federazione che dovrebbe rinnovare il contratto con noi, ma non mette soldi sul tavolo. Poi che sia presidente o che ci siano altri editori che non sono d'accordo, questo io non lo so, però il fatto che lo stesso Riefeser si renda conto della situazione di gravità e che venga a trovarci solidarizzando in questa situazione la dice lunga sulla preoccupazione che tutti abbiamo sulla sopravvivenza nei prossimi mesi, nei prossimi anni di questa categoria. Certo, ecco, le faccio veramente un'ultima domanda sul ruolo anche sociale che ricoprite, non solo ovviamente economico, perché insomma lo accennava lei, le edicole sono un po' dei presidi del territorio, gli edicolanti si alzano molto prima dell'alba, quindi avete anche un ruolo in questo senso. Sì, noi rappresentiamo da sempre un presidio sul territorio, avere quelle luci delle edicole aperte è un elemento importantissimo. Oltretutto io faccio presente che una delle poche realtà dove la gente va, si ferma, chiacchiera e che sono rimaste quelle che erano una volta, perché i rapporti personali sono sempre rimasti uguali, quelle sono le edicole. Le edicole che abbiamo in provincia sono ancora dei luoghi dove la gente va a scambiare le idee, dove il giorno dopo le elezioni va a discutere. Ieri nella nostra provincia c'era un sacco di gente nelle edicole che si scaldava a discutere di quello che era successo alle elezioni in Emilia Romagna, indipendentemente da come la pensano, da come ognuno di loro, però le edicole è un luogo di incontro. L'assenza di edicole significa togliere una lanterna sulla città, significa togliere un luogo di incontro spontaneo dove ci si vede, ci si parla, dove le persone fisicamente si confrontano e non dietro la tastiera come purtroppo sta diventando. Io la ringrazio molto. Prego.